Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto della puntata numero 475 di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal 2012 cerca di ispirare a vivere, pensare e agire un'esistenza senza crudeltà. Per incuriosirvi, vi dirò che in questa puntata parleremo di inquinamento, danni montani, cavallucci marini, premi Oscar che si tuffano dentro le petizioni e topi di laboratorio. Il tutto verrà condito da una ricetta d'alta quota e nevicate musicali. Nell'ultimo periodo, un po' tutti gli ambienti, sempre più frequentemente, parlano del problema dell'inquinamento. Tra i più recenti studi vogliamo ricordare quello dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che sfata il mito che, per ridurre le polveri sottili, bastino le giornate di blocco delle auto. Lo studio ha rilevato che sono il riscaldamento e gli allevamenti i due principali settori a produrre l'inquinamento atmosferico, contribuendo rispettivamente al 38 e al 15,1% delle polveri liberate nell'aria. Industria e veicoli leggeri impattano invece per l'11 e per il 9%. Nel 2015, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, in Europa l'esposizione a concentrazioni elevate di polveri sottili è stata responsabile della morte prematura di circa 442.000 persone. L'Italia è il secondo paese in Europa per decessi prematuri. Fino ad ora si considerava solo il particolato primario, ovvero le polveri emesse direttamente come quello dei tubi di scappamento delle auto. In questo caso il contributo degli allevamenti intensivi è molto modesto, ma le polveri si formano anche in atmosfera attraverso processi chimico-fisici tra particelle già presenti. Il prodotto di queste interazioni è il particolato secondario ed è qui che le percentuali degli allevamenti sono allarmanti. Gli esperti dell'ISPRA hanno dichiarato che il particolato secondario, ovvero quello derivante dalla produzione di ammoniaca liberato in atmosfera, si combina con altre componenti per generare proprio le polveri sottili. In Italia la quantità di ammoniaca prodotta da bovini, suini e ovini è quasi il 75% di quella totale. Se per intervenire sul traffico si può bloccare la circolazione dei veicoli o per ridurre l'effetto del riscaldamento si può limitare la temperatura interna, per agire sugli allevamenti occorre aumentare la riduzione del consumo di carne, latticini e uova o, ancora meglio, l'eliminazione dei prodotti di origine animale, che è la soluzione che tutta la redazione del programma auspica avvenga al più presto. Thank you. Restiamo ancora in tema di inquinamento e cambiamenti climatici. Nell'ottobre scorso, una terribile tempesta di vento si abbatté sulle Dolomiti, in particolare nella zona bellunese, producendo danni mai visti prima. Migliaia e migliaia di alberi, anche grandi alberi, furono abbattuti dalla furia del vento, tanto da trasformare letteralmente il paesaggio. Passato lo sgomento, di fronte all'inedito scenario di distruzione e desolazione, è cominciato il tempo dei bilanci e degli interventi per salvare il salvabile. Il nostro Zenone Sovilla è tornato a mesi di distanza a visitare le Alpi bellunesi. Ecco il suo servizio. Stando ai rilievi effettuati dai forestali, è concreta la speranza che si siano salvati gli animali selvatici presenti nei boschi devastati dalla violenta tempesta di fine ottobre sulle Dolomiti e in particolare in provincia di Belluno. Dei circa 300.000 ettari dei boschi bellunesi, oltre l'1% era stato devastato, gli alberi caduti a terra, abbattuti dal vento. Bene, fortunatamente a quanto pare sotto questi alberi non ci sono animali morti. Secondo i forestali, gli animali sono scappati, gli ungulati, circa 32.000 fra cervi, 10.000 caprioli, 13.000 camosci, 7.000 e mufloni, 2.000 stando al censimento dei forestali bellunesi. Questi animali sarebbero scappati via, si sarebbero spostati dalle zone, dai versanti più esposti al vento violentissimo che soffiava alla fine di ottobre, così come gli uccelli naturalmente che sarebbero volati via per mettersi in salvo. Ciò non toglie che le condizioni di questo inverno sono state particolarmente gravose per la fauna selvatica, in alcune zone la caccia è stata sospesa. Gravi comunque sono state invece le conseguenze di questa ondata di maltempo sui pesci. In questo caso purtroppo molti sono morti a causa delle esondazioni, sono morti soffocati dal fango oppure perché finiti in aree che poi hanno visto l'acqua andarsene e sono rimasti sui prati e quindi fuori dal loro habitat. Adesso, stando sempre agli esperti della forestale, si confida nella grande capacità riproduttiva della fauna ittica sui corsi d'acqua bellunesi, sperando che presto si ritorni agli equilibri precedenti. Ma veniamo alla questione del ripristino degli oltre 42.000 ettari di boschi devastati. Parliamo di 9 milioni di metri cubi di legname a terra. Qui si vede concretamente la differenza di strumenti operativi a disposizione in aree alpine fra loro molto simili tra le province autonome, Trento e Bolzano, e quella di Belluno che chiede l'autonomia da decenni ma non la ottiene e deve invece confrontarsi con le politiche della regione del Veneto. In proposito ascoltiamo l'analisi del sociologo bellunese Diego Cason. Il problema adesso è dovuto al fatto che le quattro amministrazioni delle due regioni e delle due province autonome hanno agito in modo disgiunto, il che naturalmente ha premiato quei territori che avevano già una struttura organizzativa del prelievo del legname, della sua lavorazione all'interno delle segherie e un canale di commercializzazione del prodotto a terra o lavorato o semilavorato. Di conseguenza Belluno, che è la provincia meno strutturata sia dal punto di vista delle imprese boschive sia dal punto di vista delle segherie, è quella più penalizzata e il risultato è che a Trento si sono venduti i lotti di legname a fondo valle, diciamo così, a 70-80 euro a metro cubo, quindi un prezzo tutto sommato abbastanza buono rispetto a quello normale di mercato, mentre a Belluno le aste sono in parte andate deserte e quelle che si sono concluse hanno venduto il legname in bosco a 12-20 euro a metro cubo, con grave danno per i proprietari, soprattutto le regole e i comuni. La struttura organizzativa forestale delle province di Trento e Bolzano è operativa ed è in grado di agire con rapidità, cosa che hanno già fatto, mentre la struttura forestale dello Stato, della Regione del Veneto e della Regione Friuli sostanzialmente sono inesistenti. Cosicché di fronte a questa emergenza qui l'unica cosa che hanno saputo fare è stato intervenire sull'emergenza per liberare le strade e mettere in sicurezza le opere infrastrutturali danneggiate. E però dal punto di vista boschivo non hanno ancora fatto nulla e tutto quello che intendono fare consiste sostanzialmente in un sussidio per gli interventi di emergenza, molto meno per i lavori boschivi, e però quello che manca è una gestione della filiera del legno che danneggia gravemente i proprietari dei boschi, i quali per reazione hanno deciso di agire da soli e recarsi sul mercato da soli. Naturalmente questo ha determinato una perdita secca sul valore a metro cubo del legname. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Doesn't want you anymore. It's over. It breaks your heart in two to know she's been untrue. È dedicata alle Dolomiti la ricetta di oggi, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico-gastronomico, ovvero il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà. E dopo gli ultimi aggiornamenti sulle Dolomiti, ecco a voi una golosissima ricetta che arriva giusto appunto dalla provincia bellunese, i carfogni. Gli ingredienti sono, per la pasta, 250 g di farina di frumento, 20 g di farina di ceci, 50 g di olio di semi di girasole, 50 g di zucchero di canna, 50 ml di vino bianco, 25 ml di grappa, della vaniglia, un pizzico di sale, un pizzico di lievito per dolci e la buccia grattugiata di mezzo limone. Mentre per il ripieno, 80 g di semi di papavero, 40 g di cioccolato fondente oppure della marmellata di pesche o di albicocche, 40 g di pasta frolla cotta oppure dei biscotti vegan o anche delle fette biscottate, 50 g di zucchero di canna, 50 ml di grappa, latte vegetale e olio per friggere. Infine dello zucchero a velo per decorare. Iniziate preparando la pasta. Lavorate la farina di grano e quella di ceci assieme allo zucchero e all'olio e alla grappa. Aggiungete il vino bianco, il sale, il lievito, la scorza di limone grattugiata e la vaniglia. impastate bene fino ad ottenere un composto liscio e morbido. Se fosse necessario aggiungete poca acqua. Coprite con della pellicola per alimenti e lasciate riposare per un'ora. A parte, preparate il ripieno. Fate tostare per pochi minuti i semi di papavero in una padella, quindi macinateli con un macinino da caffè. A parte, tritate la pasta frolla o i biscotti assieme al cioccolato fondente e allo zucchero di canna. Unite i semi di papavero e la grappa e se l'impasto dovesse risultare troppo duro aggiungete poco latte vegetale. Adesso tirate la pasta in una sfoglia sottile e realizzate dei ravioli dolci farcendo con l'impasto preparato in precedenza. Friggete i carfogni in olio bollente fino a quando saranno ben dorati, quindi scolate e fate raffreddare su carta per frittura. Servite coprendo con zucchero a velo. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Sul numero zero della rivista online Risme, che si può scaricare gratuitamente, c'è un racconto di Monica Pezzella che si chiama Mamma Topa, che narra l'ultimo giorno di una topolina da laboratorio e dei suoi cuccioli. Ne esce fuori un racconto toccante sul triste destino di questi animali. Nel 2007 la cantautrice animalista Maria Dainis ha donato all'iniziativa Against Primate Experiment una canzone, Monkey in a Cage, allo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione di un rifugio per primati nel Regno Unito. Ecco alcune strofe del testo. Un altro giorno uguale a ieri. Verranno a prendermi e mi porteranno via. Cosa significa essere una scimmia in gabbia? Ho imparato lo stesso gioco di ieri. Il mio mondo è sofferenza e non posso andarmene. Sento una voce, non c'è scelta. Sono una scimmia in gabbia. Monkey in a Cage, Maria Dainis. Another day, the same as yesterday. They'll come to get me and they'll wheel me away. I'll touch the screen, what does it mean to be a monkey in a cage? I learned the game, the same as yesterday. My world is pain and I just can't get away. I hear a voice, there is no choice. I am a monkey in a cage. L'ambientalista Luciano Manna, attraveso il sito VeraLeaks, segnala il mercato illegale di cavallucci marini che popolano il mare pugliese, venduti come potenti afrodisiaci e per realizzare un prezioso liquore. Il cavalluccio, dopo essere stato posto dentro una bottiglia, viene lasciato a macerare nell'alcol. Gli esemplari della specie protetta sarebbero venduti per pochi euro al chilo a commercianti asiatici, che alla fine della filiera li rivenderebbero a prezzi elevatissimi. Richiesti dal mercato asiatico, in particolare da Hong Kong, sono anche le oluturie, comunemente dette cetrioli di mare, utilizzate per uso alimentare, medico e nel settore della cosmesi. Entrambi gli animali vengono pescati nel Mar Piccolo e nel Mar Grande di Taranto, provocando così un grave danno ambientale al nostro ecosistema marino. Per favore, firma la petizione qui sotto e insieme a me fai sentire la tua voce contro la cattura disumana di orche e balene beluga in Russia. Firmato Leonardo DiCaprio. È il messaggio che arriva dal premio Oscar attraverso la piattaforma change.org, che segna la sua svolta animalista oltre che ambientalista. Il 27 febbraio DiCaprio ha condiviso la petizione sui suoi profili social, chiedendo ai suoi follower di firmarla e condividerla. Molte persone da tutto il mondo si sono unite a questa campagna per chiedere la liberazione dei cetacei dalla prigione delle balene di Primorsk in Russia. Tra i firmatari anche Pamela Anderson e Jean-Michel Cousteau, che hanno sollecitato il presidente russo Putin ad attivarsi per liberare questi animali. È stata Anastasia Ivanova che con un gruppo di attivisti russi è riuscita a portare il caso all'attenzione della pubblica opinione in Europa, Stati Uniti ed Australia. Oltre 100 cetacei sono rinchiusi all'interno di stretti recinti della costa orientale russa nella città di Nakoda, e il più grande numero di animali marini mai detenuti all'interno di gabbie temporanee. Alcune sono rinchiuse lì da luglio. Speriamo che l'intervento di DiCaprio porti alla loro liberazione. In 1945 I came to this. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti. E avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro appare limpido e regale. Il cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Cantavo di swing provenire dal neolitico, dall'olocene. Sento il suono di un violino e mi circondano l'alba e il mattino. The place was clean, well lit. Chissà com'erano allora il rio delle Amazzoni ed Alessandria la Grande e le preghiere in l'amore. Chissà com'era il colore. You look at the hands, not at the face. If you want to stay out of trouble. Mi lambivano suoni che coprirono rabbie e vendette di uomini con clave